YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati, un nuovo appuntamento con RadioTube. Lo sapete ormai, la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, questa settimana particolarmente il perdibile della settimana tra TV, web TV, social TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web, continuiamo a non chiamarlo popolo della rete, tutto quello che ha fatto scatenare noi questa settimana, Daniele. Però a furor di popolo della rete siamo arrivati a... Sette. Questa è la settima, la prossima sarà l'ottima. L'ottima. Potete. Te la sei preparata però, allora tu ti scrivi dei testi pazzeschi. Dunque, sì. Voi potete segnalarci un sacco di cose, soprattutto video, visto che siamo alla radio è ovvio che ci segnalate dei video, all'indirizzo Twitter di Marta sul Tube, che però l'indirizzo è @MartaCagnola, oppure al mio @DiBellasio. Ovviamente usiamo sempre l'hashtag mitico cancelletto radio. Cube. Questa settimana io vorrei proporti subito due spunti. Bestioline, ancora. Diminutivi, bestioline, questa sempre. È la puntata dei diminutivi. E bestialità. Partiamo con le bestioline, dai, partiamo in maniera un po' più... Con i diminutivi. Sì, diminutivi. Questa settimana ci sono stati le bestioline, inteso come cagnolini, e le bestioline inteso come falchetti. Falchetti, è una nuova corrente politica, una correntina politichina. Perché i falchetti sono piccolini. I falchetti sono piccolini. Uno era appena arrivato dalla palestra, è arrivato un attimo in ritardo. Che no? Carini i falchetti che sono. Ti piacciono? Sono bellini i falchetti. Hai capito. Tu eri lì? No, non ero no, lì. Perché so che eri a Roma. Sì, ero a Roma, non ero con i falchetti. No. Dove sono andati i falchetti? I falchetti hanno incontrato in una serata organizzata da Daniela Santanchè l'ex premier Silvio Berlusconi. Cosa è successo? La pitonessa ha invitato i falchetti. La pitonessa ha invitato i falchetti a incontrare il papà di Dudù. Questi giovani sono usciti dall'incontro nella sede di Forza Italia a Roma. Cosa hanno raccontato alla stampa? Cos'è successo? Che grandi rivelazioni hanno fatto i falchetti? Quella barzelletta, com'è nato il Bunga Bunga, ora non ricordo precisamente com'era, però per rompere il ghiaccio ha raccontato quella. Poi quella del Papa, ha parlato del cane, se ti interessa. Ah, di Dudu? Sì, sì, sì. Raccontandomi cosa del cane? Niente, all'inizio un episodio di la mattina quando si sveglia, di come il cane lo sveglia la mattina. E come lo sveglia il cane la mattina? Gli lecca il piede. Cioè, scusa, raccontami bene. Scusa, Dudu lecca il piede a Silvio Berlusconi per questo svegliarlo. È quello che ha detto lui. Comunque Valeria in regia diceva che anche alla Zanzara si è sentito molto, quindi anche alle Zanzara, Zanzara hanno parlato di falchetti e di cagnolini, che meraviglia. Sì, ma che meraviglia, ma poi scusami, ma i giornalisti incuriositissimi da questa cosa, ma poi soprattutto ha raccontato l'origine del Bunga Bunga e il falchetto dice, ah però questa non me la ricordo. Ma no, come? Ma poi la barzelletta io la voglio sapere. No, appunto, cioè, appello ai il paese è appeso a questa cosa da anni, il falchetto, no, però questa non me la ricordo, però vi racconto il cane Dudu. Passiamo dalle bestioline alle bestialità, perché che questa è una vera bestialità, sì, che è soprattutto dai falchetti e grillini, diciamo. Dai falchetti e grillini non ne usciamo. Non ne usciamo dagli animali. Ma se col primo video che vi abbiamo mostrato alla radio io mi sono divertita, col secondo mi sono un po' arrabbiata. Arrabbiata. Allora, vuol dire incazzati alla radio? Non so. Secondo me di fronte a questo video ci si può anche incazzare. Ah, se lo dici tu io mi permetto di usarlo come termine. La deputata del Movimento 5 Stelle Emanuela Corda. Cittadina, torniamo a cittadina, va, che in questi casi è meglio. Perché uno vale uno. Emanuela Corda ha fatto una gaffe, diciamo così, durante la commemorazione in aula alla Camera del decennale della strage di Nassiriya. Vediamo il video alla radio. Gentili colleghi, l'aspetto più drammatico della strage di Nassiriya è che, a nostro parere, non fu uno scontro tra buoni e cattivi, non fu un attacco di militari che fecero strage di civili inermi. Da una parte e dall'altra, infatti, vi erano delle vittime. E i responsabili politici e morali, i mandanti di quella strage, non sono mai stati puniti. Tutti noi ricordiamo commossi 19 italiani deceduti in quell'attacco kamikaze, e oggi siamo vicini ai loro familiari. A volte ricordiamo anche i 9 iracheni che lavoravano nella base italiana, ma non troppo spesso. Nessuno ricorda però il giovane marocchino che si suicidò per portare a compimento quella strage. Quando si parla di lui, se ne parla solo come di un assassino e non anche come di una vittima, perché anch'egli fu vittima oltre che carnefice. Una ideologia criminale lo aveva convinto che quella strage fosse un gesto eroico e lo aveva mandato a morire, e non escluso che quel giovane, come tanti kamikaze islamici, fosse spinto dalla fame, dalla speranza che quel suo sacrificio sarebbe servito per far vivere meglio i suoi familiari. Insomma, la povera Emanuela Corda poi ha detto: non ho fatto l'elogio del kamikaze, ho denunciato un'ideologia ignobile che sfrutta la disperazione e l'ignoranza portandolo a trasformarsi in bomba umana. Però le parole hanno un loro peso. Sì, quasi la scusa è peggio di quello che ha detto. Le parole hanno un loro peso, quindi io mi sono... Io devo dire che ricordo quel giorno di Nassiriya come uno dei momenti in cui il nostro paese ha mostrato la maggiore compostezza, la maggiore capacità di rappresentare un orgoglio nazionale senza enfasi di nessun tipo, tantomeno militaresca, ma riconoscendo che i militari svolgono anche un ruolo di quel tipo lì. Mi ricordo quel giorno come uno dei migliori della nostra Repubblica e mi ricordo questo discorso di questa parlamentare come uno dei peggiori del nostro Parlamento. Non ho altro da aggiungere, perché ci troviamo tra poco e parliamo ancora di politica. È stata una settimana molto ricca. YouTube. Rieccoci insieme con Radio Tube. Abbiamo parlato di bestioline, di bestialità, e abbiamo anticipato che avremmo parlato ancora di politica. Tanta politica questa settimana. Io amo la politica, la mia roba. Più grande passione dopo quella che conosci, che è l'Inter. Il calcio, ecco. No. E allora io vorrei chiamare in causa un personaggio amatissimo, seguitissimo e molto autorevole su Twitter proprio per quanto riguarda la politica. Sì, lui è il più grande, lo dico, esperto di comunicazione politica con tanto di blog. Secondo me ha riattaccato e se n'è andato dopo questa affermazione. Chissà Spizzito, se ce l'abbiamo. È già padre nobile. Sì. Filippo Sensi, vice direttore di Europa, editorialista, commentatore, non so neanche corsivista, il Corriere della Sera. Troppa grazia, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera chiocciola Nonfup. Sì, perché lui è più conosciuto quasi come Nonfup che come Filippo Sensi. Ti dà fastidio? No, anzi, sono come sempre, poi quando quelli che usano questi acronimi vorrebbero sempre sparire dietro queste sigle. Quindi spieghiamola però questa sigla, che è un po' complessa. Sì, la sigla è l'acronimo per una frase non un po' licenziosa in inglese che dice: non è proprio il mio problema, ecco, diciamo, it's not my effing problem, diciamo così, ed è una frase presa da una serie televisiva inglese che si occupa molto di spin doctor, comunicazione politica, e quindi era un po' un omaggio a questo universo tra politica e comunicazione della stessa. Ecco, io invito veramente tutti a fare un salto ogni tanto sul blog di Filippo. Comunicazione politica, ne abbiamo avuto una prova questa settimana. Donne che hanno fatto il bello e il cattivo tempo questa settimana. Parliamo di Alessandra Mussolini. Parliamo di Alessandra Mussolini, è andata all'Aria che tira, quindi la 7, programma di Mirta Merlino, 12 novembre. Cosa è successo? Alessandra Mussolini ha avuto un acceso dibattito con Formigoni parlando di Angelino Alfano. Insomma, secondo la Mussolini, Angelino Alfano avrebbe pianto davanti a Silvio Berlusconi. E ha fatto pure l'imitazione. Esatto, ascoltiamo insieme, anzi vediamo insieme il video tratto da L'aria che tira. Formigoni, io capisco, ma chi ha personalità e chi è il segretario politico di un partito grande come quello nostro, prende, si alza e parla, pure se c'è Berlusconi, invece non ha parlato, ha pianto. Siamo persone ben educate, se ci viene detto di non parlare da Berlusconi, non parliamo. Ha pianto, perché... a Berlusconi adesso sarà lo faranno decadere con le lacrime, con i fazzoloni, eravamo basiti. Alfano ha pianto. No, però, dottoressa Merlino, io le prego di tenere a bada. No, finisca. L'irruente Mussolini, altrimenti da Milano, cioè se fossi lì a Roma potrei alzarmi e metterle amorosamente una mano sulla bocca. Essendo da Milano non riesco. La mano sulla bocca, io te la metto da un'altra parte. Lui è moderato, allora, io no, e quindi da me si accetta. Beh, che bei momentoni, che bello, la mano di qua, la mano di là, e stiamo parlando di politica. Povero perché quell'altro Angelino. Argomento lo affronteremo dopo. Ma io vorrei fare a Filippo una domanda a scelta, cioè secondo me sono successe tre cose questa settimana dal punto di vista dei talk show o dintorni. Uno è Renzi che twitta nella diretta Matteo risponde su Twitter, D'Alema ha fatto la battuta, no? Non stiamo leggendo un dattilografo ma un segretario, e si riferiva alla polemica perché Enrico Mentana ha detto che forse digitava troppo velocemente, magari era finto. Poi noto un calo della piazza nelle trasmissioni televisive, e io sono molto contento perché avevo chiesto addirittura di proibire l'occupazione del suolo pubblico, basta con la piazza arrabbiata. Terza cosa, noto che tutte le trasmissioni devono avere gli hashtag in sovraimpressione. Ora ti dico, queste sono le mie tre lampadine, accendine una e dici cosa ne pensi. Ma guarda, se vuoi te le accendo tutte e tre, sono tutte interessanti. Quella diciamo, partiamo dall'hashtag, che così mi viene quasi più facile. Un po' c'è questo vizio, come se fosse quello che negli anni 70 era il borsello, no? Si porta l'hashtag, come uno lo mette lì sotto, e poi ci sono quelli che twittano e ritwittano. Però io direi di sfidare delle imitazioni. Ci sono pochissimi programmi che in realtà favoriscono un'interazione reale con i social network. Molti altri se la puntano lì come una specie di cavalierato. Insomma, si sa e si capisce, si vede dopo un po' se una trasmissione è flessibile o meno. Uno che ce la fa? Uno che ti piace? Per esempio, per dire, Agorà la mattina, in particolare nella formula con Andrea Vianello, ma ancora adesso tenta di ricevere le suggestioni che vengono dalla rete. Il tema di Renzi che twitta, tra l'altro anche lì Mentana aveva detto ma mi sa che è finto, come ricordavi te, insomma non ci voglio vedere bene dentro, e Renzi immediatamente ha twittato in diretta durante il telegiornale. Mentana ha letto il tweet di replica del sindaco di Firenze che lo sfidava a una gara alla tastiera, quindi in qualche modo Renzi è entrato perfettamente con i tempi e non solo, ma anche nel merito del dubbio, della perplessità sollevata da Mentana, che è uscito da Twitter, si è ritrovato Twitter nel suo telegiornale. E si è anche ritrovato la moglie. Questa è la notizia, da dove l'ha visto il tweet? A parte la redazione, secondo ovviamente. Me lui lo guarda ancora anche per controllare la moglie che lo critica su Twitter. E quando dici critica, sei gentile, diciamo. Sempre eufemismo. Però anche secondo me, comunque, su Twitter in qualche forma, sotto mentite spoglie, adesso dico di stimolare, però Mentana secondo me c'è. Mentana c'è. L'ultimo è il tema del calo della piazza. Che ovviamente Bellasio lo diceva proprio come prescrizione, che dovrebbe essere bandita, se non ho capito male, dai talk show politici. Però anche io l'avevo notato in effetti di recente, cioè c'è una concentrazione molto in studio piuttosto che non nella piazza, anche perché gli inviati dei talk show, che sono una nuova figura proprio giornalistico professionale e che adesso stanno attorno ai leader come un tempo erano le agenzie di stampa, cioè un tempo attorno al leader c'era l'ANSA, la DN Cronos, oggi intorno al leader c'è l'inviato di Agorà, l'inviato di Ballarò, l'inviato della Gabbia, no? Che devono fare un servizio, sono mandati molto spesso più a fare servizi che poi servono all'economia e alle trasmissioni piuttosto che non a dare il famoso microfono di santoriana memoria in diretta alla piazza ribollente. Quindi forse secondo me c'è stato un cambio di destinazione d'uso delle persone che compongono, che poi fanno il timone del talk show. Ve la butto lì, ma non possiamo commentare da del debbio a gazebo. Ma vorrei porvi un'altra questione, la questione generazionale. Io vi farei vedere due audio, due personaggi che parlano di questione generazionale. Abbiamo Giorgia Meloni a Ballarò e Lapo il Can irresistibile. Ascoltiamoli. Penso io per esempio alla questione generazionale, sarà che sono un po' fissata. Due mondi. Il mondo di chi ha avuto le tutele, le garanzie nel mercato del lavoro, il sistema pensionistico retributivo, la possibilità di avere accesso nel pubblico impiego, il mondo di quelli che hanno avuto invece tutto il peso della flessibilità scaricato su di loro, il sistema contributivo nelle pensioni, il blocco del turnover nel pubblico impiego, l'assenza di infrastrutture, che è di fatto una generazione di schiavi. Allora. E insomma verrebbe anche da dirlo, perché poi quelli che lo hanno costruito sono i famosi, no, sessantottini, quelli che volevano la gioventù al potere, ma hanno dimenticato di dirlo che voleva fino a quando erano giovani loro, perché poi non hanno schiodato mai più dalle loro poltrone. E anche questo, diciamo che noi imprenditori, noi italiani, e gli italiani indipendenti come me, che l'unico vero obiettivo che hanno è quello di vedere il paese crescere e crescere nella giusta direzione, con dei giusti principi, con delle giuste morali e con etica. Etica intendo un paese dove viene premiato chi ha le capacità e non chi è amico di, fratello di o figlio di. Poi c'è chi può attaccarmi dicendo: ah, ma tu sei nipote di, fratello di. Io ogni giorno lotto, poi che sia partito da uno scalino di privilegio non lo nego, ma quello che conta poi nella vita è se tu parti da uno scalino, quanti ne scali dopo, come poi, perché scalarli è un conto, scalarli con correttezza, etica e bontà, secondo me sono un pregio. L'apoteosi, mi piace. Ti sei preparata tantissimo per questa puntata. Mi è venuta così all'impronta, però bello, eh? La Meloni che riesce a strappare un applauso a scena aperta a Ballarò. Sul 68. Sul 68, qualcosa rivoluzionaria. E l'apo che ha la difesa dall'accusa all'interno dello stesso discorso. Senti il rumore di unghie sui vetri mentre parla l'apo. Bellissimo. Sui vetri, sugli scalini. Filippo, che cose meravigliose. Che cosa ci dici? In effetti, no, per carità, è comprensibile. Tra l'altro, lo stesso l'apo il can mi è sembrato a un certo punto non accorgersi, non per altro, però che quella cosa che diceva poteva essere controproducente. Cioè a un certo punto ha avuto come un colpo di reni, come per dire, no, con l'Italia è il paese del merito e talento, poi ci ha ripensato un secondo, ha fatto una specie di rewind, ha detto no, però perché anche io il privilegio lì, ha ricordato, e poi l'ha buttata sul fatto della lotta, che comunque insomma il fatto di conquistarsi, certo, giorno per giorno la propria credibilità mi sembra comunque... Non mi sembra un consiglio ozioso, ecco, adesso è chiaro che poi il video è diventato virale perché sulla rete era come per, insomma, il sottinteso era un po' la darsi di gomito, ma sentite, ma proprio lui, però insomma poi tutto sommato invece secondo me il fatto, il nocciolo della questione non era affatto inutile. Mentre sulla Meloni, la Meloni era il più classico degli applausi da talk show, insomma, ovviamente se uno fa la cosa generazionale, tanto più la Meloni, Giorgia Meloni, che ha costruito insomma gran parte della sua credibilità sul fronte della giovinezza, della gioventù, eccetera. Piuttosto di Meloni noto un'altra cosa che mi colpisce, che cambiato un po' il clima politico, mentre quando era al governo ovviamente più ministro, più insomma più composta, più insomma come più decore. Ecco, è tornata invece un po' più scamiciata, ecco, un po' più, no, le strizzate d'occhio a Le Pen, la battaglia contro l'euro, insomma ha riscoperto una vena che... Secondo me in televisione è veramente molto brava, una delle più brave. Bravissima. E molto, molto, molto manicure. Molto manicure. La Meloni è diventata molto manicure. Dobbiamo salutarci per qualche minuto. Ringraziamo Filippo Sensi, chiocciola Nonfup. Grazie Filippo di essere stato con noi. Grazie a voi. Noi ci ritroviamo tra poco e, caro Daniele, ti faccio felice perché parliamo di calcio. Sono venuto solo per questo. YouTube. Ancora con Marta Cagnola, chiocciola Marta Cagnola per chi frequenta Twitter, ancora con Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio per chi frequenta Twitter, ancora con RadioTube, hashtag RadioTube per chi frequenta Twitter, perché citiamo così tanto Twitter? Perché RadioTube è la trasmissione che sì, vi parla di televisione, ma anche di social TV, di web TV, noi alla fine interagiamo sempre con Twitter e su Twitter parliamo tanto di... politica, vabbè, sì, ne abbiamo parlato per mezz'ora. Sì. Parliamo di donne, ne parleremo dopo. Sì. Parliamo di calcio. Finalmente. Cioè, questa settimana ha un sorriso sfoggiato parlando questa è di calcio. La fredda cronaca. Questa è stata la settimana di... Lo conosci? Di... Ti sei preparata? Di Erik Thohir. Allora, io già ho dovuto imparare come si pronuncia Thohir. Grande magnate indonesiano. L'ho visto fisicamente e mi sembra un po' Gabriele Cirilli quando imita Psy. No, non è così. No, dai. Ma un po' di rispetto per il presidente dell'Inter. Non è Giovanna d'Arco, per citare... Ma no, per citare Ballando con le stelle, di cui abbiamo parlato nella scorsa settimana. Il calcio è una cosa seria. Il calcio è una cosa seria. In Italia. Il calcio è una cosa seria. Va bene, allora cosa è successo? Lo so anch'io, perché io ho vissuto settimane di angoscia con Daniele, che era molto preoccupato per il futuro della sua squadra. Molto preoccupato, no, perché comunque l'Inter, diciamo così, ci presta, ci educa la sofferenza. Ecco. E quindi la preoccupazione è il minimo. Però certamente questo è un evento. Un magnate straniero compra una grande squadra italiana, la compra dal presidente dei presidenti, Massimo Moratti, il presidente che è un po' un sinonimo di Inter. Pensi Inter, pensi Moratti. E quindi è un evento anche di cambio di fase, una nuova Italia, arriva lo straniero, non compra l'Italia, non compra Telecom, ma compra una grande squadra. Chissà come mai, che cosa c'è dietro a questo? Ne vogliamo parlare con il vice direttore del giornale, Giuseppe De Bellis, che oltre ad essere un vice direttore che quindi si occupa di tutto, dalla politica alla cronaca, agli esteri, molti esteri soprattutto, è molto noto però con un altro nome anche sul calcio. Lo conosci? Non solo su Twitter, dove è chiocciola Giudebellis, ma anche sul Foglio, in cui è noto come Beppe Di Corrado. Ha vinto addirittura un premio con un libro firmato con un altro nome. E quindi sulla targa c'era il nome di un altro, bellissimo. Esatto. Questa cosa è bellissima, noi credo ne abbiamo parlato ma non l'abbiamo ancora salutato. Buonasera Giuseppe. Ciao. Buonasera a voi, vi passo Beppe. Ecco, giusto. Vabbè, tutto questo è geniale. Che poi Corrado è? È mio papà, quindi è un patronimico, uno pseudonimo con patronimico. Bellissimo questo. Tra l'altro mi hanno detto tifoso del Bari. Eh sì, a me, quindi se Daniele e gli interessi sono abituati alla sofferenza, immaginate uno che ti fa Bari. Sì, no, perché c'è questo problema, c'è un articolo bellissimo sull'Unità, c'è la Puglia che sta scomparendo dal calcio. Così ho letto, e ovviamente io spero che non sia così, magari poi approfondiamo, perché nessuno parla della tanto disgraziata Puglia, o meglio, ne parliamo per altre ragioni, calcisticamente siamo effettivamente un po' depressi, però risorgeremo, vedrete. Beh, insomma, avete il cinema del momento, volete anche sì. Il calcio, non possiamo esagerare, tutto in una regione sola. No, questo è giusto, questo è vero. Io però vi voglio provocare su Moratti, perché? Cos'è successo a proposito di video virale di social TV? Per la prima volta Massimo Moratti, rullo di tamburi, ha rifiutato un tapiro. Perché è triste davvero. È triste davvero. Ascoltiamo cosa è successo a Striscia la Notizia con Massimo Moratti. Sor Moratti, buonasera. Dai. L'ultimo tapiro da presidente dell'Inter. Sarà rimasto male, Sor Moratti. Come mai mi ha venduto l'Inter? Nessuno se lo sarebbe mai aspettato che... Cioè, uno se l'aspettava più che... L'Inter non è più questa rottura di balle. Ma quale? Il nostro invito. Ma come? Il tapiro di rottura di balle? L'ha sempre preso con grande ironia, Sor Moratti. Ma scusi, ce l'aspettavamo, non so, da uno come Berlusconi, oppure da De Laurentiis, la verità di un team, ma non da uno come lei, come mai, Sor Moratti? Che parolacce! Ha detto balle, molto milanese però. Dai. A proposito di Milano, vabbè, insomma, il sindaco Giuliano Pisapia ha twittato: Moratti presidente onorario, la famiglia nerazzurra potrà sempre contare su di te, in bocca al lupo al neopresidente. Beh, insomma, resta la squadra di Milano anche se diventa indonesiana, e infatti ci sono un sacco di tweet in questi giorni, in queste ore, soprattutto dopo la conferenza stampa di ieri. Antara Sedi Kampur Banga. Come avevo fatto io, tu mi copi. Già fatto il però non è solo calcio. Giuseppe, spiegaci, non è solo calcio, no? No. Dai, questo secondo me è forse finalmente un pezzo d'Italia che si apre al mercato, perché abbiamo visto in queste settimane un'Italia chiusissima nei confronti del mercato straniero. Viva Dio, almeno il calcio, il tanto vituperato calcio invece è più liberale di tante altre cose. E quindi secondo me c'è appunto tanta economia, tanto costume, perché ci apriamo a un paese che non conosciamo, un'area che non conosciamo, e lo facciamo attraverso comunque uno dei nostri principali veicoli di comunicazione, che è il calcio. Quindi secondo me il calcio subentra quasi in maniera secondaria. Quindi anche nei talk calcistici italiani finalmente parleremo un po' di Indonesia e di indonesiano. Non solo in quelli calcistici, penso. Ah, sai, ci servirà a... No, il problema è che comunque un po' di sospetto c'è, perché comunque, insomma, Moratti ha vinto tutto, ha vinto il triplete, ci ha messo un po' di anni prima di arrivare a vincere. Moratti è conosciuto, Moratti ha un suo stile e quindi il sospetto c'è. Sono sospetti in qualche modo giustificati, Giuseppe? Cioè, insomma, è un progetto? Quando arriva qualcuno dall'esterno si parla subito di progetto. C'è, secondo te, lo intravedi? È un'idea? Ma siccome ci sono dei capitali, io penso che ci sia anche un progetto, nel senso che dal punto di vista economico, al Sole 24 Ore forse l'ha raccontato meglio di chiunque altro, questo progetto Toir ha delle basi solide, altrimenti Moratti non credo che si sarebbe privato dell'Inter se non di fronte a un'offerta seria. L'offerta è seria, quindi io credo che se uno investe dei capitali altrettanto seri, poi... abbia in testa di creare comunque un vero progetto, quindi io sì, credo che ci sia un progetto. Io però voglio farvi parlare anche di Juve per due ragioni. Uno, perché questo video virale è uno dei più visti della settimana su YouTube. Yes. Due, perché noi siamo sempre molto affezionati ai parrucchini e ai capelli. Che cattiva! Sei perfida in un modo incredibile. Non chiedere nulla al povero Giuseppe. No, di fare... Però ascoltiamoci questo video degli autogol. Io sono il sergente Antonio Conte, vostro allenatore. Quella che ci sarà martedì con il Real non sarà una partita normale. Sarà piuttosto una battaglia, una guerra, nella quale dovrete dare tutto lottando su ogni pallone. Vi è chiaro? Sì, sì, signore! Ah, che cazzo non vi sento! Tirate fuori la voce! Sì, sì, se voi vincerete questa partita, se sopravviverete a questa guerra, sarete veri uomini. Potrete entrare nella storia di questa gloriosa società. Ma fino a quel giorno non siete nulla. Martedì giocheranno soltanto i più forti. Ogbonna, ma che cazzo guardi? Non pensare di giocare pure al ritorno. Hai giocato soltanto perché Isla, Motta e Padoin erano le uniche alternative. Se ci fosse stato in ballottaggio Cassonetto avrebbe vinto lui. Se vedo quella femminuccia di Cristiano Ronaldo toccare più di 10 palloni, giuro che vi spacco le caviglie ad uno ad uno. Avete capito bene quello che vi ho detto? Virali questi gli autogol su YouTube, dai, ridiamo anche un po' del sì, calcio. Sì, no, assolutamente, poi sì. Quando si parla di Inter si parla di Juve, sono due argomenti gemelli, vero Giuseppe? Sì, ormai sì, o meglio, è sempre stato così, ma negli ultimi anni ancora di più. Devo dire che questo sketch è bellissimo, anche perché Conte è che il protagonista ovviamente occulto di questo sketch, poi è la persona meno ironica del mondo, e quindi credo che non avrà trovato simpatico. E pensa alle battute che ha fatto Marta prima. Si allora sarà arrabbiato con me. Beh, lasciamo perdere, andiamo avanti. Facciamo tutto per non parlare della Roma, lo so, lo fate solo per non parlare della Roma prima in classifica. Vi devo richiamare all'ordine perché è finito il tempo per questa parte di Radio Tube. Sì, perché poi dobbiamo parlare di altri argomenti. Abbiamo parlato di politica e di calcio, tra poco parleremo anche. Chi vince lo scudetto, Giuseppe? Si può dire il Milan, no, ovviamente. E quindi io dico il Napoli. Ha detto il Napoli. E con un pronostico con cui alla fine della stagione di RadioTube risentiremo per vedere se aveva avuto ragione. Ringraziamo Giuseppe De Bellis, chiocciola Giù De Bellis, per chi volesse seguirlo su Twitter. Grazie Giuseppe. Noi... Grazie a voi. Saluti a Beppe Di Corrado. Ci sentiamo tra poco. Grazie Giuseppe. YouTube. Come passa in fretta il tempo quando ci si diverte, lo dico ormai in tutte le puntate. Da sette volte lo dico, sì, perché siamo insieme per gli ultimi minuti del nostro RadioTube, il preaperitivo, come l'ha definito Chiocciola Kikuz. Mi piace molto il preaperitivo. Abbiamo dimenticato di parlare di un sacco di cose importanti. I nostri telespettatori si chiedono, per esempio, E il parrucchino di Sandro Maier? Non l'abbiamo neanche ancora salutato. No, allora, Ballando. Sai che c'è stato il dramma la scorsa puntata? Sì, è caduta Anna, che avevamo già detto, non è Giovanna D'Arco, poverina. Mica Giovanna D'Arco. Ma poverina è caduta. No, infatti. E seriamente, perché? Ma sì, perché tutti hanno cominciato a dire, ma sarà caduta davvero, si sarà fatta male davvero. E cosa hanno fatto? Da Ballando con le Stelle hanno pubblicato il PDF del referto medico. Anche la foto di lei che cade. È povera Anna, si è fatta male, quindi... Sì, quando torna in ballo? I ritorni. Sì. C'è chi è tornato questa settimana dopo tanto tempo. Zanetti, dopo... no? No, un altro è tornato dopo tanto tempo, dopo un infortunio. Ah, Zanetti. Non un infortunio fisico, un incidente di percorso. Del percorso. Piero Marrazzo. Piero Marrazzo, sì, Piero l'ex presidente della Regione Lazio. Ebbene sì, è tornato in televisione con Razza Umana. Ti dico come lo definisce il sito della RAI. Un'unica razza, un unico concetto costruito sulla più grande, abissale, affascinante, misteriosa diversità, l'uomo. Raccontare l'uomo di ieri, di oggi, di domani attraverso un viaggio, una ricerca libera e imprevedibile. Ti dico subito, caro Daniele, che mi fa una gran tenerezza Piero Marrazzo. Io farei vedere alla radio l'inizio di Razza Umana, perché dal tono di voce di Piero Marrazzo, insomma, si capisce che effettivamente siamo tutti molto umani, e quella sera lì lui mi sembra che lo fosse in particolare. Vediamo alla radio questo frammento. Vediamo il tono della voce. Eccoci di nuovo insieme per vedere ed ascoltare storie che arriveranno da tutti i continenti. Ospiti che ci aiuteranno qui in studio a capire meglio il mondo intorno a noi. Tutto questo per affrontare insieme un viaggio nella razza umana. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono quelle di Veronica, una ragazza che 13 anni fa, insieme a due amiche, uccise una suora a Chiavenna. Noi abbiamo ascoltato parole che parlavano di violenza sul proprio corpo. Ecco, questa sera a Razza Umana ci poniamo una domanda. Ma il mondo è davvero impazzito? E useremo il corpo per tentare di capirlo. Beh, insomma, i social network l'hanno un po' massacrato. E la rete, come sappiamo, è impietosa. Bella. Lui faceva fatica, eh? È un po'... Sì, faceva fatica. A me piace molto, devo dire, il genere televisivo del ritorno, ritornare in TV. Dopo non esserci stato a lungo. Sì. A me piace molto l'idea della seconda possibilità in genere nella vita, ma in televisione, vabbè, la più storica è quella di Enzo Tortora, la vicenda dove è tutt'altra. Dove eravamo rimasti? La vicenda è tutt'altra, è tornata ancora d'attualità questa settimana con il Festival di Roma. Parliamo di cinema. Ah, ma perché? Perché parliamo di Roma? E perché parliamo di cinema? Parliamo cosa di cinema. Cosa hai visto in questa settimana? Ho visto dei film molto carini al Festival di Roma. Ho visto quello dei Manetti. Quando uscirà ne parleremo. Manetti Bros, delizioso, ma ne parleremo a tempo debito. Vorrei tornare invece indietro a un film di qualche anno fa. Vorrei farti sentire, anzi farti vedere un video. Vorrei proprio vederlo, questo in modo particolare. Questo, sì. Un video di un flash mob mandate avvenuto. A letto i bambini, mandate a letto i bambini, cari telespettatori, come dice Marta, si parla di Sciascio. Sì, di Sciascio. Allora, siamo in un locale nel quale tutte noi ragazze degli anni Ottanta, quando siamo state a New York, abbiamo fatto un pellegrinaggio. Ma anche qualche ragazzo, anche non è che fate ragazzo. Tutto voi. Si chiama Katz Deli, lo so che detto così sembra che ci sia un doppio senso, non c'è, o forse c'è, vabbè, insomma, il Katz Deli di New York è famoso per una scena di un film che è stata ricreata in un flash mob, cioè insomma... Scena è dire poco, però. Cioè, una leggenda. Un monumento al cinema. Se qualcuno non avesse ancora capito di quale scena stiamo parlando, io ascolterei direttamente un estratto da questo. È l'audio più famoso della storia del cinema dopo Domani un altro giorno. Ebbene sì, questo però è l'audio del flash mob. Ci ascoltiamo subito con il flash mob. Ascoltiamolo. All right. I cinefil avranno già capito. Non sta succedendo qui in studio, no. Rassicuriamo a casa. No. I cinefil avranno già capito che c'è qualcuno che sta simulando un momento particolarmente felice nella vita di una donna. Stanno simulando. Anche stanno di un uomo, simulando. È sempre di una donna. No, beh, perché sono 20 donne che stanno... Ho capito. Anche a noi fa piacere, cioè vuol dire regalare piacere. Ok, queste sono 20 donne che fingono. Che fingono. Una scena di un film molto famoso, nel Katz Deli di Manhattan, si sono ritrovate queste 20 donne del gruppo Improv Everywhere, improvvisazione dappertutto. La cosa più bella di questo video sono le facce degli altri, perché come sentite a un certo punto tutte si sono messe a imitare. Come se qui a Radio 24, a un certo punto... Marta Cagnola nella redazione iniziasse e poi tutti... tutte seguisse. Beh, straordinario. Adesso dovrei lo facciamo. Provare. Adesso andiamo di là in redazione e lo facciamo. Ma però... l'originale? Esatto, chissà se tutti hanno indovinato il film. Secondo me sì. Secondo me, vabbè, ce ne riascoltiamo un pezzettino. Dai, Rivediamolo assolutamente. Meg Ryan. Rivediamo alla radio un pezzettino. Siamo ancora tutti innamorati. Meg Ryan, Billy Crystal, eccoli qua. Harry, ti presento Sally. Ma che stai dicendo? Che fingono l'orgasmo quando... È possibile. Sì, addio. Perché? A tutte le donne è capitato di fingere. Beh, non hanno mai finto con me. E come lo sai? Perché lo so. Ah, ciao, giusto, dimenticavo, sei un uomo. E questo che vuol dire? Niente, tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto, tira le somme. E io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicolo. Sì, sì, sì, oh, oh, oh, oh. Quello che ha preso la signorina... Quello che ha preso la signorina è una delle scene che ho più amato di questo film, che ahi noi ha qualche annetto, 1989. Beh, pensavo persino peggio. 1989, io quest'estate ho visto questa scena come altre. Sì, come con altre, lei. Con lei, con Meg Ryan al Festival di Taormina. Personalmente. Di persona personalmente l'ho intervistata e posso dire che nonostante quello che dicono tutti, sì, e lo dirà anche qualcuno tra poco perché lo riascolteremo insieme, è ancora una bellissima donna. Sì, no. È ancora molto bella, certo. Ma le hai fatto una domanda specifica su questa scena? Certo. E ti sei fatta raccontare? Mi sono fatta raccontare, lei è una donna divertentissima. Poi sai, le signore americane, le grandi attrici, hanno questo oltre a fingere, hanno questo approccio molto professionale e molto amichevole con i giornalisti, perché sanno che con i giornalisti devono fingere di essere amiche da anni, perché poi lei sa che noi tutte crediamo di essere sue amiche perché l'abbiamo vista in questo film e quindi dici in radio che è ancora una bellissima donna. E ti dirò di più, Hollywood ti impone di farti della manutenzione periodica. È un obbligo. Quando sei... c'è qualcuno che non l'ha fatto. Molto poche, molto Sharon, poche. Dicono, no? Sharon, Meryl, però sai, un po' di tagliandini bisogna farseli. È bello che tu le chiami qualcosa. Per nome, proprio. Certo, certo. Sai chi ne ha parlato malissimo? Sì, settimana? Il tuo grande amico. Però in questo mi ha un po' quello deluso, che è stato cattivo. Sì, no, anche perché obiettivamente quello che dicevamo all'inizio di questa trasmissione, prima di queste 7 puntate, secondo me qualche colpo di comicità lo sta perdendo. Sì, vabbè, facciamolo ascoltare ai radioascoltatori, anzi vedere ai telespettatori che vedono tutto tramite radio. Maurizio Crozza, 12 novembre, Ballarò, siamo tornati al Ballarò del 12 novembre, cosa ha detto di Meg Ryan? Sentite qua. Le nostre coste sono diventate ormai, ecco, come Meg Ryan, sono irriconoscibili. Ve la ricordate, Meg Ryan? Ci siamo innamorati tutti di lei quando l'abbiamo vista in Harry, ti presento Sally. E adesso, a forza di ritoccarsi, se la vedi, ti viene voglia di baciare Harry. Vendere le spiagge, vendi le spiagge. Oh, Ciccio, tu non vendi un cazzo perché le spiagge sono di tutti. Sono mie, tue, sue, egli, tu, su di tutti. Prima di vendere spiagge, vendi le auto blu, tagli i parlamentari, tagli i comuni che sono, tagli le province, le pensioni d'oro, i vitalizi, mi tagli i razzi. Amico caro, sì? Fatti un po' le cazze tu. Ma perché? Ma cazzo te ne fotte delle spiagge? Ma no, ma sono importanti. Ma cosa c'è? C'hai una cugina che pesca granchi tu? Ma no, cosa c'entra adesso? Ma cazzo te ne frega, asfalta tutto. Asfalto? Le cazze tu, asfalta ma tutto. Ma perché? Che quando il granchio esce dal mare, che sono 50 gradi, lo cuoci direttamente sull'asfalto. Ma no, ma ne usano i bambini, ci asfalta, fanno i castelli tutto. Di sabbia. Ma che castelli di sabbia? Ma fatti un castello tuo, ma privato, cosa? Abusivo. Ma no. Tutto col cemento mattonato, ma fatelo al posto della spiaggia, metteci un parcheggio di auto blu. Ma perché? Fa pandan col mare. Eccolo qua Maurizio Crozza. Allora, abbiamo cominciato col cagnolino Dudù, i falchetti e finiamo con col i granchi. Granchio. Una puntata piena di bestioline. Molte bestioline in attesa della belva. Molte bestioline in attesa della belva che noi speriamo sempre che torni. Speriamo di saperlo in anticipo, dai. Speriamo. Comunque ci ho subito. Pensato, io la prossima settimana ti telefono. Mi telefoni? Sì, non vengo qui, vado al Cats Daily. Tu vai al... mi chiami dal Cats Daily, vuoi essere il ti mio paradiso. Non simulo niente. No, se vai al Cats Daily, voglio la simulazione. No, mi sono, diciamo così, messo nei guai con le mie mani. Vabbè, dai, ricordiamo che possono assolutamente scriverci. Viviamo su Twitter. Viviamo su Twitter, possono scriverti @MartaCagnola. Sono bravo. @DiBellasio. Lo so anch'io. Cancelletto RadioTube. E ci troviamo la prossima settimana, il prossimo fine settimana. Alla ottima. Alla ottima puntata. A presto. Ciao, Anna.